versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 29 di maggio, 16:36, primi 35 secondi, dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta. Allora, in ideale continuità, quasi, anche se non era voluta, con il tema trattato da Matteo, che nella trasmissione precedente parlava di un racconto di viaggio. Sì, in qualche modo anche noi oggi ci occupiamo di viaggi. Perché ci occupiamo di viaggi? E quindi, se volete, telefonateci. Perché torniamo su un tema che in questi mesi più volte abbiamo dovuto toccare, cioè quello dei trasporti pubblici nel nostro paese, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, quelli curati soprattutto dalle aziende municipalizzate o dalle aziende partecipate poi a oltre che dai comuni, da province e regioni. Lo facciamo questa volta non per incrudelire, come diverse volte abbiamo fatto nei confronti delle grandi aziende italiane. Ce n'è una in Italia che è la più grande europea di settore, l'ATAC a Roma, di cui ci siamo più volte occupati e che è ben lungi dall'aver intrapreso la strada del risanamento, o di quella di Napoli o Palermo, ma ricordo che oggi nella cosiddetta capitale morale, cioè Milano per intenderci, anche oggi e domani, due giorni di begli scioperi nel trasporto pubblico, oggi di Trenord, domani dei trasporti urbani con la TM. Siamo ormai al ritmo di un paio almeno di scioperi di questo tipo a Milano al mese, e tutto va avanti così, cioè tutti si sono abituati. Allora, partendo da questi dati di fatto, cogliamo però lo spunto per chiedervi come la pensate nel vostro trasporto, nella vostra città, che cosa avete percepito in questi anni. Ma lo facciamo perché è uscito un paio di giorni fa un rapporto annuale proprio sulla mobilità urbana, che è commissionato dalla somma di 166, sono 166 le aziende del trasporto pubblico locale nel nostro paese, che fa con molti numeri molto interessanti e a sorpresi, è a sorpresa, almeno a me hanno sorpreso, vediamo voi, il punto della situazione nel nostro paese. Perché per esempio uno può immaginare che negli anni di crisi e di contrazione del reddito delle famiglie e dei consumi delle famiglie si alzasse la domanda di trasporto pubblico, invece sorpresa, non è così, tanto per cominciare. Negli anni di crisi si è contratta l'offerta invece del trasporto pubblico, e questo, diciamo, forse deve sorprendere meno vista la contrazione degli orizzonti di finanza pubblica e il fatto che una percentuale elevatissima di queste aziende perde e deve rientrare delle loro perdite e dei loro debiti. È d'accordo. Però da questo punto di vista siamo ancora lontanissimi da una sostenibilità finanziaria accettabile. Pensate che nel sud, nelle isole in particolare, siamo ancora, per le aziende di trasporto pubblico locale, a una media di proventi commerciali, cioè ricavato dai biglietti, che copre il 18-19% dei costi operativi, il 18-19%. E pensate che siamo lontanissimi poi dall'avere una visione accettabile di come si fanno le norme e si applicano su tutto questo settore. La riforma, quella di settore, il decreto Burlando del 97, dal 97 a oggi il legislatore è intervenuto 20 volte, 20, lo sottolineo, 20 volte sulle procedure di affidamento dei servizi, e quindi anche qui un bel caos normativo. Poi vi chiedete come mai nascono i problemi tipo taxi e Uber. Nascono dal fatto che il regolatore non sta dietro né ai suoi obblighi di norme chiare, trasparenti, eccetera eccetera, né tantomeno segue l'evoluzione poi del mercato. Ed ecco che siamo a taxi Uber, ma ci torniamo, l'abbiamo già fatto la puntata su quello, ma presto ci torneremo. Anzi, un saluto caro a Salvatore, il tassista milanese, che prima mi ha chiesto una cosa che mi ha commosso e ci tengo a salutarlo. Allora, ne parliamo oggi di questi numeri del trasporto locale un po' a sorpresa con uno dei curatori di questa ricerca annuale, di questo rapporto annuale sulla mobilità urbana, e il professor Andrea Boitani, che insegna economia politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professor. Buon pomeriggio, ma non sono uno degli autori di questo, rapporto. Eccoci qua, subito inizio con una bella scivolata bestiale. Detto tutto questo, io sono rimasto un po' sorpreso nella parte iniziale dai numeri che dicono la tendenza della domanda, cioè meno trasporto pubblico in questi anni di crisi. Come si spiega? Ma innanzitutto, diciamo, la cosa più rilevante è che c'è stato meno trasporto in generale in questi anni di crisi, e diciamo, meno trasporto pubblico è l'aspetto, se vogliamo, minore rispetto a tutto, alla dinamica del trasporto. Cioè si è viaggiato di meno, sia diciamo dentro le città, sia fuori dalle città, sia nel trasporto interurbano, e questo è il dato diciamo più grande in termini numerici. Poi c'è stata anche una lieve perdita di quota del trasporto pubblico, ma qui, visto che non sono autore di questo rapporto, posso anche dire che si tratta di un'indagine campionaria, come sempre non sono diciamo così affidabili al 100%, anche se si tratta di un campione abbastanza vasto rispetto a quelli che vengono utilizzati per i sondaggi elettorali, che come noto danno risultati piuttosto bizzarri, però insomma si tratta sempre di un campione di 15.000 soggetti rispetto a una popolazione di 60 milioni, insomma, quindi ovviamente diciamo i risultati, quando si parla di variazioni piccole di anno in anno, io sarei molto cauto. Di sicuro in termini di evoluzione verso modalità più sostenibili del trasporto, i numeri di questo rapporto non sembrano confermare l'idea che abbiamo imboccato una strada molto netta e apprezzabile, per così dire. Guardi, l'impressione che si ha da una prima lettura del rapporto è che in realtà ci siano andamenti differenziati, come spesso accade diciamo nelle diverse aree d'Italia, per cui da un lato abbiamo un nord-ovest dove le quote del trasporto pubblico aumentano e dove anche diciamo così l'uso della mobilità sostenibile tendenzialmente aumenta. Abbiamo un nord-est dove si ha una sostanziale stazionarietà e invece perdite di quote sia al centro che al sud nelle isole. Quindi diciamo il quadro è un po' differenziato. Che cosa c'è al nord di differente rispetto a ciò che c'è al centro e al sud? Certamente c'è la differenza di Milano, dove è stata fatta una politica di controllo della domanda di traffico privato con l'introduzione di area C, tra l'altro diciamo un esperimento di policy che ha ottenuto un riconoscimento internazionale come il premio per International Transport Policy dell'ITF, dell'OCSE, proprio in questi giorni, quindi forse è una cosa che va menzionata e che ha avuto certamente efficacia nella riduzione del traffico privato verso la zona centrale di Milano, facendo aumentare contemporaneamente sia l'uso del mezzo pubblico sia l'uso delle biciclette e in parte anche dei motorini e moto che non sono bloccate, non pagano l'accesso all'area C. Quindi diciamo questo potrebbe significare, se le cifre fossero effettivamente diciamo confermate, che diciamo una politica di regolazione del traffico è essenziale per diciamo ridar fiato al trasporto pubblico e ridurre l'uso dei mezzi privati, in particolare dell'auto. Dell'auto, che secondo questo rapporto invece si accentua in questi anni. Diciamo nonostante appunto la crisi, nonostante i prezzi del petrolio che hanno effetti diciamo asimmetrici sui prezzi dei carburanti, nel senso che quando il petrolio aumenta il prezzo del carburante aumenta, ma quando il petrolio diminuisce il prezzo del carburante non diminuisce, e quindi qui c'è un problema ovviamente di distribuzione e di produzione dei petrolieri oltre che dei distributori, ma diciamo nonostante questo effettivamente c'è un leggero aumento della quota del traffico su auto, soprattutto extraurbano, ma anche diciamo così nelle aree urbane, salvo appunto il nord-ovest. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati alle 16:47, primi 13 secondi, Radio 24, a parlare di trasporto pubblico locale. L'occasione è quella di questo rapporto annuale sulla mobilità urbana, che è promosso dalle 166 aziende pubbliche di trasporto locale. Abbiamo visto qualche dato e qualche dubbio anche del professor Boitani su questi dati del rapporto, ma insomma più auto e non meno in questi anni di crisi rispetto ai mezzi pubblici. Certo conta molto anche la contrazione dell'offerta delle aziende pubbliche, che non stanno bene, perché tra i tanti grafici che vengono presentati nel rapporto c'è per esempio l'evoluzione dell'età media del parco di vetture circolante. Negli anni, in pochi anni, è passata da 9 a 12 anni, si capisce che chiaramente risorse finanziarie da investire non ci sono, ma comunque la contrazione, anche qui con aree geografiche diverse in Italia, dell'offerta misurata in termini di passeggeri trasportati, vetture per chilometro, con diversi indicatori tecnici per quantificare l'offerta del trasporto pubblico, sono tutti anch'essi in contrazione. Qui, professor Boitani, pesa probabilmente in maniera prioritaria lo stato finanziario, i debiti patrimoniali e la bassissima percentuale di ricavi rispetto ai costi operativi di queste aziende, o no? Diciamo, questo dato è interessante sotto molti punti di vista perché una riduzione dell'offerta che avesse esclusivamente l'effetto di ridurre, di tagliare, diciamo così, quei doppioni di collegamenti che effettivamente sono inutili e che rappresentano quindi degli sprechi, sarebbe altamente benvenuta. Viceversa, alle volte la riduzione dell'offerta può significare riduzione delle frequenze su linee che invece sono utilizzate e questo può avere un effetto di dissuasione all'uso del mezzo pubblico da parte dei cittadini che trovandosi, diciamo, un'offerta più rarefatta su una relazione, diciamo così, che utilizzano frequentemente, decidono di utilizzare il mezzo privato piuttosto che il mezzo pubblico perché i tempi di attesa e quindi, diciamo, l'affidabilità del servizio si è andata riducendo. Quindi quando si fanno riduzioni di offerta bisognerebbe fare sempre riduzioni di offerta su laddove si presentano degli sprechi, dei raddoppi, eccetera, e ce ne sono molti, specialmente nel campo dell'extraurbano, con alle volte raddoppi di servizio tra gomma e ferro e via di seguito. Dall'altro certamente c'è un problema di finanza pubblica e questo, diciamo, ha comportato che venissero fatti dei tagli, come ho detto, qualche volta non in maniera ragionata e ragionevole, ma diciamo così un tanto al chilo, con una logica lineare che non funziona quasi mai. Però, professore, le posso fare una domanda? Proprio dal punto di vista delle dimensioni, cioè ogni impresa rispetto alla struttura tipica dei suoi costi, i costi operativi, in questo caso sono appunto le vetture, il carburante, l'assicurazione, il personale dipendente e così via, ha un ambito di mercato al di sotto del quale è così sottottimizzata che non ce la può fare rispetto alle risorse che può ottenere. Qui abbiamo un dato da una parte che ci dice che il rincaro dei biglietti medio, stiamo parlando in questo caso del trasporto urbano, è stato in 12 anni del 67%, dice il rapporto, quindi un rincaro molto elevato. Dall'altra si vede che queste 166 aziende comunque coprono una percentuale dei loro costi, pur in presenza di un aumento dei ricavi di questo tipo. Certo, ci sono stati 800 milioni di tagli annuali sommati al trasporto pubblico locale da parte del governo centrale. O dei comuni, però il problema è che pur in presenza di un aumento delle tariffe così elevato continuano a coprire i loro costi. L'ho detto, nelle isole al 18%, ma si sale poi al 20%, a poco più del 30% anche nelle parti più avanzate d'Italia. La domanda è: ma non è che bisogna ripensarlo tutto questo sistema, le 166 intoccabili, municipalizzate, regionali e così via, bisogna smontarle, aprire al mercato, fare gare vere per avere dimensioni diverse, per tentare di coprire meglio con risorse del mercato strutture di costi di questo tipo? Ma allora, il problema, secondo me, è questo, risiede tutto in una elementare verità algebrica, e cioè quando la copertura dei costi con ricavi da traffico è al 30%, diciamo, un aumento dei ricavi del 10% riduce, diciamo, la necessità di sussidi pubblici di appena il 7%. Viceversa, un una riduzione dei costi del 10% riduce la necessità di sussidi pubblici del 17%. Questa è una, diciamo, una verità elementare di cui quasi nessuno tiene conto, neanche il commissario alla Spending Review Cottarelli. Bravo, apprezzo molto questa stilettata. Osservazione, la verità. Esatto. Quindi quando, cioè, pensare che si possa ridurre il contributo della finanza pubblica a questi servizi aumentando i ricavi, cioè aumentando le tariffe. Fondamentalmente, senza neanche tener conto, diciamo, degli effetti di elasticità che questo può avere naturalmente, si commette un errore piuttosto elementare, diciamo. E come talvolta si introducono delle aliquote così elevate su dei beni e poi si scopre a fine anno che il gettito naturalmente è molto diverso da quello atteso. Esatto, e qui insomma il problema è quello della riduzione dei costi. Allora qui su questo vale la pena di dire che i costi operativi in Italia in media sono tra i più alti d'Europa, sono molto vicini a quelli della Germania e della Spagna, mentre sono molto più bassi nel Regno Unito, sono un po' più bassi in Germania e in altri paesi dell'Unione Europea. Forse, diciamo, una puntare sulla riduzione dei costi potrebbe essere ragionevole, e per la riduzione dei costi non c'è bisogno di una riduzione degli stipendi, bensì un aumento della loro produttività. E questo è il punto vero, cioè non è soltanto una produttività che dipenda dalla gestione delle aziende, perché certamente dipende dalla gestione delle aziende, basta, diciamo così, che si aumenti di un quarto d'ora il tempo di guida effettivo degli autisti perché la produttività aumenti in maniera molto significativa, senza peraltro aumentare l'orario di lavoro complessivo. Però c'è una parte della produttività che dipende dalle politiche del traffico, della mobilità dei comuni, perché diciamo così, la velocità commerciale dei mezzi incide moltissimo sul costo. Ed essa è troppo bassa nel nostro paese. E guardate, questo è un problema che non è che Milano è l'eccezione. Milano ha avuto una politica della mobilità urbana, ce l'ha ricordato il professor Boitani, però questo è un problema fondamentale. E credo che ci vogliano dei politici un pochino che sentano di più gli esperti su questo settore. Però non voglio sembrare chi della solita idea che bisogna bypassare la politica. Certo, la politica pesa molto nel fatto che il trasporto pubblico locale gode di insoddisfazioni profondissime ed estese nel nostro paese, malgrado questo andamento, più 67% delle tariffe in 12 anni, della tariffa di trasporto urbano. Ahimè, il tempo è volato e mi devo scusare anche con Umberto D'Alessandria che è in attesa di essere collegato, perdono, però continuate su Radio 24, grazie professor Boitani e appuntamento con me a domani.